Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. C'è una partita di baseball in corso. Si gioca per strada, in uno spazio in mezzo a baracche e biciclette. I giocatori sono donne, bambini, qualche anziano, e nessuno di loro conosce esattamente le regole del gioco. Nessuno, tranne uno, un americano, che sta improvvisando con le persone che ha incontrato per strada una partita a quello che è considerato lo sport più popolare d'America. Tutti si divertono in modo naturale e sincero, e anche quell'uomo gioca e ride con la spontaneità di un ragazzino. Non sembra che al di fuori di quello spiazzo ci sia una guerra. Fa caldo, ma piove. Piove sempre a Saigon. The United States, as the world knows, will never start a war. We do not want a war. We do not now expect a war. This generation of Americans has already had enough, more than enough, of war and hate and oppression. Il discorso che John Fitzgerald Kennedy pronuncia all'American University nel giugno del 63 sembra essere rassicurante. Con parole ferme e decise, il presidente comunica alla nazione che gli Stati Uniti non hanno intenzione di intraprendere una nuova guerra in Vietnam. La nazione ne ha abbastanza di guerre, di odio e di oppressione. Purtroppo però le parole di Kennedy sono smentite dai tragici fatti che solo 2 anni dopo portano gli Stati Uniti ad appoggiare le truppe anticomuniste del Vietnam del Sud, con capitale Saigon, trascinando il paese in una guerra durata 7 anni, durante la quale la più forte superpotenza del mondo conosce una grande, dolorosa sconfitta. Una sconfitta che segna un'intera generazione di americani e che lascia tracce indelebili che ancora oggi i veterani e le loro famiglie non riescono a dimenticare. È finita, Johnny. È finita! Non è finito niente! Niente! Non è un interruttore che si spegne! Non era la mia guerra! Lei me l'ha chiesto, non gliel'ho chiesto io! E ho fatto quel che dovevo fare per vincerla, ma qualcuno ce l'ha impedito! E il giorno che torno a casa mia, trovo un branco di vermi all'aeroporto che mi insultano, mi sputano addosso, mi chiamano assassino e dicono che ho ammazzato vecchi e bambini. E chi sono per urlare contro di me, eh? Chi sono per chiamarmi assassino se non sanno neanche che cavolo stanno strillando? Rambo è uno dei tanti esempi con cui gli Stati Uniti hanno cercato fino ai giorni nostri di raccontare il dramma della guerra, ma anche le storie di chi, tornando a casa, è stato trattato come un perdente ed emarginato dai suoi stessi connazionali. La guerra del Vietnam è un argomento su cui gli americani non amano scherzare. L'atteggiamento negativo con cui per anni sono stati considerati i reduci di quella guerra maledetta ha suscitato nella cinematografia hollywoodiana uno spirito di catarsi, di purificazione dalla colpa di non avere saputo accettare l'idea della sconfitta, facendone ricadere la responsabilità su chi è sopravvissuto alla giungla vietnamita. Non puoi stare in questa casa. È questo il Dio in cui credi, vero mamma? Non puoi restare. È quello in cui credi tu, ma non io. Non puoi restare in questa casa. Non credo più in lui. Va a letto, perché lui ha passato solo 3 giorni lassù. Io invece ci devo passare tutta la vita. Vorrei essere morto come lui. Non sai quello che dici. E questo è il problema, mamma. Io non sono morto. Io devo vivere. Devo vivere su queste ruote e ricordare il Vietnam alla gente. E voi non volete sapere, non volete vederci. Volete nasconderci perché vi diamo fastidio come la merda. Io sono un fottuto idiota. Tom Cruise, interprete del film Denuncia di Oliver Stone, nato il 4 luglio, racconta il disagio dei sopravvissuti che avrebbero preferito morire nella giungla da eroi e martiri piuttosto che ricordare a tutti una sconfitta pesante e indelebile. C'è un uomo però che in Vietnam ci è andato per sostenere le truppe al fronte combattendo la sua guerra personale non a colpi di fucile o di napalm, ma con un semplice microfono e pochi dischi in vinile. Stiamo parlando di un disc jockey, una persona con grandi capacità di intrattenimento, sempre con la battuta pronta e dagli ottimi gusti musicali. Qualcuno capace di sedersi davanti al microfono di una radio dopo essersi alzato dal letto da appena 5 minuti e in grado di portare avanti una trasmissione radiofonica per 5-6 ore continuate. Urgent, urgent, all Milwaukee area residents, an epidemic of mass proportions is happening. La figura del disc jockey nasce in Francia, durante la Seconda Guerra Mondiale. Inizialmente si occupa solo ed esclusivamente di selezionare e mandare in onda i dischi in vinile trasmessi da una radio. Ma con il tempo acquista sempre più spazio, assumendo il ruolo di presentatore e commentatore delle canzoni, mentre come un fantino, in inglese jockey, salta con sicurezza tra un disco e l'altro. Il giovane soldato con la passione per la musica di cui abbiamo parlato prima svolge una brillante carriera universitaria e si laurea in legge, alternando le ore di studio con quelle trascorse alla radio locale di Pittsburgh, dove lentamente impara l'arte di parlare con disinvoltura davanti a un microfono. Il suo nome è Adrian Cronauer. Adrian Cronauer. Proprio grazie a questa sua capacità, terminati gli studi, si arruola volontario nella prestigiosa Air Force, l'aviazione americana, e diventa la voce ufficiale della radio che trasmette per le forze dislocate nel Mediterraneo, tra le isole dell'Egeo. Adrian Cronauer inizia a trasmettere regolarmente ogni mattina dalla stazione americana allestita sull'isola di Creta, nella cittadina di Heraklion, e piano piano conquista il suo pubblico con un rispettosissimo saluto mattutino. Quando sono arrivato a Creta, la mia esperienza radiofonica non era ancora molto elevata, e quindi le mie prime trasmissioni si svolgevano con serietà e prestando attenzione alla forma e ai tempi che la radio mi chiedeva. La frase con cui iniziavo tutte le mattine era un dignitoso saluto. Good morning, Heraklion. Dopo un paio d'anni a Creta, dove Cronauer trasmette ogni giorno il suo programma mattutino, gli viene data la possibilità di un trasferimento con due diverse destinazioni. La prima lo può riportare negli Stati Uniti, dove poter affinare e migliorare la sua tecnica. La seconda, invece, lo catapulta in mezzo a una guerra, di cui ancora non si conoscono esattamente le dimensioni e la tragicità. Il Vietnam. Quando arrivai a Saigon, era una pacifica cittadina coloniale francese, dove la vita scorreva più o meno tranquillamente in un incrocio di lingue, culture e tradizioni diverse. Un ambiente molto creativo e stimolante. Nel giro di un anno, però, la capitale del Vietnam del Sud si trasforma a seguito dell'incidente nel Golfo del Tonchino, dove uno scontro navale tra due navi americane e una nord-vietnamita dà il via al coinvolgimento bellico degli Stati Uniti. Il massiccio arrivo di truppe militari americane lentamente cambia il volto del paese, stravolgendone cultura ed economia. Quando me ne andai, solo due anni dopo, lasciai la città sprofondata in un incubo, a causa del massiccio arrivo di truppe, di equipaggiamenti e denaro. Alla mia partenza, l'economia era ridotta in uno stato pietoso, il traffico era fuori controllo e il mercato nero procedeva a gonfie vele. Nel 1966 Adrian Cronauer lascia il Vietnam e torna a casa, portandosi nel cuore ricordi di persone, situazioni e incontri che lo segnano profondamente. Devono passare 13 anni perché il giovane disc jockey maturi profondamente le sensazioni vissute e sia pronto a raccontarle al suo pubblico. Pochi anni dopo la partenza di Adrian Cronauer dal Vietnam, in California, un giovane sedicenne inizia a coltivare la passione per la recitazione. Questo ragazzo di buona famiglia è in realtà molto timido, impacciato, ma si accorge ben presto che proprio sul palco riesce a indossare quella maschera invisibile che gli permette di trasformarsi in migliaia di personaggi diversi, usando il volto, la voce, i gesti e tutto il suo corpo. Ci vogliono pochi secondi per abbandonare la paura di mostrare la sua esuberanza nascosta e dar sfogo a quel talento che gli permette di alternare personaggi esilaranti a caratteri seri e impegnativi. Hollywood è lì a due passi, ma il giovane attore comincia la sua carriera in televisione. All'inizio capita solo qualche piccola occasione di partecipare ai vari show televisivi dell'epoca, ma il talento non si può tenere nascosto. E così accade che Gary Marshall, regista, produttore e inventore della popolarissima serie TV Happy Days, decida di dargli una possibilità e di organizzare durante una puntata l'incontro tra Fonzie e uno strano personaggio alieno. All right. Who's going with me? I'm saying who's going with me? Hey Ralph, if you're out there and this is a bad joke, I'll give you 30 seconds to find out how much I don't enjoy wee wee wee. Huh? Whoa, whoa, whoa! Greetings, Bonzi. Baza Bonnive. Remember me, Mork from Ork? You once called me the nutso from outer space? Il personaggio di Mork, l'alieno stravagante che parla in modo veloce e cambiando ripetutamente intonazione, ha un grande successo, tanto da convincere Marshall a sfruttare il personaggio per dare vita a una nuova serie tutta incentrata sulle disavventure di una giovane ragazza americana che insegna al povero alieno caduto sulla Terra a sopravvivere alla realtà quotidiana. Oh, signore! Sono Mork e vengo da Ork. No. Ork? Sì, sai, Ork è un pianeta. Segui l'orsa maggiore fino al punto limite, quindi piega verso l'alto. Quello sarebbe... Su, e questo è giù, cioè lontano, nell'iperspazio. Ah. La serie Mork e Mindy ottiene un successo enorme. E il personaggio di Mork, con i suoi strani comportamenti e il tipico saluto nano-nano, entra nel cuore di milioni di spettatori. Un personaggio comico, che però alterna alcuni momenti di malinconia per la lontananza dal suo pianeta d'origine. Un personaggio che dà la possibilità a quel giovane studente sedicenne di fare il salto di qualità e iniziare la sua carriera di attore. Il suo nome è Robin Williams. Robin Williams. Interpretare Mork ha rappresentato per me una grande occasione, anche un colpo di fortuna, se vogliamo vederla così. In ogni caso è stato il debutto ideale per me, perché ho avuto la libertà di esprimere una miriade di personaggi, di espressioni diverse, di voci, riuscendo anche a sforare nel campo dell'improvvisazione. Buona parte del successo di Robin Williams in Italia è dovuto all'abile doppiaggio di Carlo Valli, la sua voce ufficiale. Destini Incrociati oggi lo ha scritturato per doppiare i suoi contributi e per questo lo ringraziamo. Una delle caratteristiche più apprezzate di Robin Williams è infatti la sua capacità di improvvisazione, che lo porta talvolta ad abbandonare totalmente il copione per dare libero sfogo a qualsiasi pazza idea che gli passi per la testa, con risultati strabilianti. I 4 anni passati sul set di Mork e Mindy sono stati indimenticabili. Ero indubbiamente più giovane e per me vivere quella situazione è stato qualcosa di magico. Ricevevo un sacco di lettere da bambini, persone che mi facevano un sacco di complimenti e questo per me ha rappresentato un vero cambiamento nel mio modo di affrontare la macchina da presa. Mi ha dato quella sicurezza di cui avevo bisogno. Oltre ad essere ricordata come una delle serie TV di maggior successo, Mork e Mindy rappresenta per Robin Williams quell'occasione di maggiore visibilità che gli spalanca pochi anni dopo le porte di Hollywood. All'inizio degli anni Ottanta, Adrian Cronauer è diventato un avvocato, specializzandosi prima in problemi legali del mondo dell'informazione e poi dedicandosi alla difesa dei diritti degli ex prigionieri di guerra. Proprio lavorando a stretto contatto con chi come lui ha vissuto l'esperienza della guerra, decide di iniziare a scrivere alcuni soggetti per la televisione e per il cinema, per raccontare dei suoi ricordi ed esperienze in qualità di DJ. Ma essendo anche un uomo di spettacolo, racconta le sue storie con quel pizzico di humor e di ironia che le rendono diverse da tutto il materiale di argomento militare che normalmente viene proposto a registi e sceneggiatori. Proprio uno di questi registi, Barry Levinson, legge con interesse un paio di pagine scritte da Cronauer e lo chiama a Hollywood per iniziare a lavorare con lui sul progetto di un film. Mi piaceva l'idea di un soldato in Vietnam, prima della fase cruciale della guerra. Non era mai stato fatto un film sul Vietnam che mostrasse i vietnamiti come persone reali, con la loro cultura, le loro abitudini, persone semplici. La cosa difficile da far digerire ai produttori cinematografici è di ambientare una storia durante la guerra del Vietnam, sottolineando alcuni risvolti comici che la rendono più vicina alla commedia. Gli americani non sono pronti a scherzare su una disfatta militare, come ricorda sempre lo stesso Levinson. Durante la Seconda Guerra Mondiale furono realizzate delle commedie e si trattava di sfruttare l'umorismo che c'era nelle forze armate. Non era un modo per prendere in giro, ma c'era parecchio umorismo nei personaggi e nelle relazioni tra loro. Una guerra vinta si poteva anche raccontare con un'ottica più divertente. Adrian Cronauer incontra più volte il regista Barry Levinson e in ogni occasione, con la sua parlantina fluida e precisa, racconta aneddoti su aneddoti sui 2 anni trascorsi in Vietnam come soldato atipico. Descrive persone, luoghi, situazioni diverse, sempre e comunque con lo stesso entusiasmo di chi ha vissuto quel periodo come un arricchimento della propria personalità. Alla fine i due concordano che è impossibile ricostruire tutta la storia di quei 2 intensissimi anni e così si dà il via a un pesante lavoro di sceneggiatura per creare una storia semplice ma capace di descrivere le sensazioni provate da Cronauer. Ce lo racconta lui stesso che piega prese quella riscrittura. È una versione hollywoodiana degli eventi. Per esempio, nessuno dei personaggi del film è basato su persone vere, per motivi legali. Rappresentano uno stereotipo. E come ogni buon stereotipo, ciascun personaggio potrebbe essere una mezza dozzina delle persone che conobbi in quegli anni. Beh, al lavoro terminato, non è poi così male. Il film si può fare. Manca però un titolo e soprattutto manca il protagonista, colui che sappia vestire i panni del DJ di guerra Adrian Cronauer. Deve essere un ragazzo giovane e spigliato, con una grande parlantina e capace di improvvisare davanti al microfono di una radio. Ma non basta, perché il film vuole essere anche la descrizione di un paese, il Vietnam, raccontato come nessuno lo ha mai fatto prima, andando a scavare nell'animo della gente del posto, in cerca di rapporti umani, di emozioni che vanno al di là di un semplice scontro bellico fra 2 potenze. Il nostro attore deve quindi alternare esilaranti monologhi con momenti di sofferenza interiore. Un uomo dai 2 volti, come Robin Williams. Barry Levinson, che oltre ad essere un regista è stato anche un attore comico, mi aveva notato nel film Il mondo secondo Garp, nel quale avevo avuto la mia prima vera occasione di mostrare le mie capacità come attore. Quando mi parlò della sceneggiatura del film, mi piacque subito l'idea di fare qualcosa di divertente sul Vietnam. E poi il mondo della radio mi ha sempre attirato, sin dai tempi del college. Il regista fissa quindi un appuntamento a casa di Robin Williams per fargli conoscere Adrian Cronauer e per discutere del soggetto. Se c'è qualcosa capace di unire il popolo americano sotto un'unica immaginaria bandiera, questo qualcosa è senza dubbio il baseball. Ogni americano che si rispetti considera il baseball come parte integrante della sua cultura. Anche Adrian Cronauer si ricorda di una divertente partita improvvisata in uno spiazzo di Saigon nel tentativo di insegnare le regole del gioco ai suoi amici vietnamiti. E quando la macchina di Barry e Adrian si ferma davanti alla casa di Robin Williams, la prima cosa che Cronauer vede è un giovane ragazzo americano che scherza e ride giocando a baseball coi figli. Il destino sembra avere apparecchiato per bene il banchetto dove stanno per sedersi i nostri 2 protagonisti di oggi. Destini incrociati. Destini incrociati oggi vi sta facendo conoscere la storia di un incontro tra un disc jockey che ha cambiato le regole della radio militare americana e un giovane attore che potrebbe essere perfetto per impersonarlo in un film. Quando la macchina si fermò sul vialetto e vidi Robin giocare con i figli a baseball come se niente fosse, mi venne subito in mente la stessa identica scena vissuta nel 66 a Saigon, pochi giorni prima della mia partenza definitiva. Un momento indimenticabile di amicizia, all'ombra dello sport più bello del mondo. Robin Williams sa che l'appuntamento di oggi è importante per la sua carriera. C'è un film da interpretare nella maniera che preferisce, alternando momenti di esilarante follia in cui può dar sfogo a tutta la sua fantasia, con momenti più seri, dove invece può mostrare le sue doti di attore. Quando Adrian mi venne incontro pensai, accidenti com'è diverso da me, me lo aspettavo più atletico, forte, macho, invece assomigliava a Babbo Natale. Williams e Cronauer si siedono in giardino e aiutati da Barry Levinson che li guida nella loro conversazione, imparano a conoscersi e a scambiarsi informazioni reciproche su come costruire il personaggio del film. La prima cosa che mi chiese Robin fu se avevo qualche frase particolare che ripetevo spesso durante le mie trasmissioni. Il mio programma veniva definito un dawn buster, una sveglia robusta. Io gli raccontai che in Grecia avevo perfezionato il mio saluto mattutino in Good morning, Heraklion. E quando arrivai in Vietnam, non feci altro che prendere la formula usata in Grecia e adattarla a Saigon. E Good morning, Heraklion divenne Good morning, Vietnam. And Good morning, Heraklion became Good morning, Vietnam. Robin Williams comincia a ripetere il saluto mattutino di Cronauer, enfatizzandolo sempre di più, e piano piano compare sul volto di tutti un'espressione soddisfatta. Ecco quello che ci vuole. Dopo 4 o 5 tentativi nel giardino di casa Williams, quell'urlo diventerà il vero e inconfondibile marchio del film. Barry Levinson, nel vedere Robin Williams pronunciare con tanta enfasi, ma anche con tanta convinzione, il suo personale grido di guerra, sente un tuffo al cuore per la felicità, come ci racconta lui stesso. Organizzare l'incontro tra un disc jockey ed un giullare fu un'idea geniale. Bastarono pochi momenti per permettere a queste due personalità prorompenti di interagire e trovare una sintonia per far nascere qualcosa di buono. Il film trovò un titolo, Good Morning Vietnam, e in quel momento mi accorsi di essere felice. So nice, so nice, I got you. Dopo 4 anni di lavoro passati a perfezionare la sceneggiatura nata da pochi appunti scritti da Cronauer, il film Good Morning Vietnam è pronto per essere girato. Robin Williams ha conquistato la parte del protagonista e questa scelta piace anche al diretto interessato, colui che deve essere interpretato nella finzione cinematografica, Adrian Cronauer. Sapevo che sarebbe stato impossibile raccontare i due intensissimi anni trascorsi a Saigon. Successero troppe cose e fu logico per la produzione semplificare molto la storia del film. C'è un disc jockey in Vietnam, una bella ragazza e lui si innamora. E poi c'è il fratello della ragazza che però è un Vietcong. E questo è tutto. Cronauer riconosce che non ci sono molte somiglianze tra quello che realmente successe a Saigon e ciò che viene raccontato nel film. Ma l'intenzione del regista e della produzione è quella di descrivere un momento storico, un ambiente diverso da quello che gli americani sono abituati a vedere e di inserirvi all'interno le caratteristiche più forti del protagonista che le ha vissute in prima persona. Robin è molto diverso da me, nello stile radiofonico, intendo. Io non mi sono mai messo a raccontare a raffica così tante battute divertenti come accade nel film. Se fossi stato capace di farlo, oggi probabilmente sarei al posto di Robin Williams. Quando iniziano le riprese del film e Williams deve mettersi davanti al microfono per trasmettere via radio, dà un'occhiata al copione e poi chiede di poter improvvisare un po', facendosi spiegare fino a dove può spingersi nell'uscire dalla sceneggiatura. La troupe e gli attori, certo, non si aspettano quello che sta per accadere. Good morning, Vietnam! Ehi, non è una prova questa! Questo è rock and roll! E dunque si roccheggia e si roleggia dal Da Nang al Meme Kong! Ma sono io, vi sembra quel vecchio film di Elvis Presley? Viva Da Nang! Oh, viva Da Nang! Da Nang me, why don't you get a rope and hang me? Ehi, è un po' prestino per fare casino! Ahi, m'è scappata! Le scene delle trasmissioni radio nel film durano in totale circa 14 minuti. Robin Williams incide a ruota libera gli interventi da disc jockey per un totale di 2 ore. Io ho sempre dato molta importanza all'improvvisazione. Talvolta è proprio in quei momenti che nascono le battute migliori di un film. Uno sceneggiatore è capace di impiegare 2 anni a scrivere una battuta che invece ad un comico può venire in mente in 5 secondi. Il regista Barry Levinson continua a girare. Robin Williams va a ruota libera e mentre rimane seduto davanti al microfono improvvisando decine e decine di battute, la troupe si deve trattenere dal ridere come vorrebbe per evitare di rovinare la scena. Sul set, comunque, regna una grande allegria. Vederlo davanti al microfono era incredibile. Non riuscivo a pensare che stesse interpretando proprio me. Era 1000 volte più divertente. Però ricordo che in più di una occasione ci ritrovammo ancora a parlare e lui non smetteva mai di chiedermi consigli. Il clima che si crea all'interno della produzione è bellissimo, perché Robin Williams non solo si diverte e fa divertire, ma anche perché nei momenti di pausa della lavorazione riesce a mantenere un rapporto di serenità e allegria con tutti, anche con le comparse vietnamite che sono state scritturate per il film. Un giorno, ricordandomi quello che mi aveva raccontato Cronauer, mi misi in testa di insegnare a giocare a baseball alle comparse vietnamite, così che organizzai un campo in mezzo alla strada, presi dei meloni, trovai dei bastoni e ci preparammo a giocare una partita. Nessuno, a parte me e pochi altri americani, conosceva le regole e ci furono una serie di scenette divertentissime. Solo il giorno dopo si viene a sapere che tutta la partita è stata ripresa e che una nuova scena viene inserita nel film. Signor Cronau, una palla da baseball è più piccola e più solida di questa qui. Sì, tu hai ragione, ma vedi, mi dispiace, non abbiamo soldi. Io devo andare all'aeroporto. Dobbiamo cercare di arrangiarci. Dammi la mano. Grazie. Oh, grazie a te. Grazie ugualmente. Sì, grazie ugualmente. La vuoi tenere tu la palla? No. La tieni tu? Ok? Guarda che dobbiamo giocare, tu sei il lanciatore. Io quindi... vorrei rendere la palla al suo posto, d'origine. Okay. E allora prendiamo un'altra palla. Questa no, è meglio, no? No, è anche no, questa? Utile. La spontaneità nata dal girare quella scena convince la produzione a ripetere la partita ogni giorno alla stessa ora per una settimana. La scelta delle parti più divertenti e spontanee ha permesso di girare l'intera sequenza che si vede nel film. E anche questo è frutto dell'incontro fra un pirotecnico attore e la commovente storia di un soldato atipico. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati stiamo vedendo nascere un film che ha permesso a un giovane attore di esprimere tutte le sue capacità e a un disc jockey di raccontare i suoi ricordi sulla guerra del Vietnam. Siamo sul set di Good Morning Vietnam. L'esperienza di Cronauer, del vero Cronauer, non quello interpretato da me, è stata vera, genuina. Lui ha avuto la possibilità di vedere un paese in pace trasformarsi in una nazione divisa dall'odio verso il nemico e verso quegli stessi americani piombati lì per difendere la popolazione locale. Ringraziamo ancora una volta Carlo Valli, il doppiatore ufficiale di Robin Williams, per averci aiutato a realizzare la puntata di oggi. Good morning, destini incrociati! La trama del film, abbiamo detto, si discosta molto da quello che è realmente accaduto a Cronauer nei 2 anni trascorsi a Saigon. E lui, da buon intrattenitore e uomo di spettacolo, ha trovato un modo simpatico per giustificare questa discordanza tra la realtà e la finzione di Hollywood. Sì, facevo il disc jockey in Vietnam. A questo punto nelle mie conferenze tutti si mettono a ridere perché mi gratto la testa cercando di pensare a cos'altro ci fosse di vero. Sì, insegnavo inglese nel tempo libero. No, non l'ho fatto per conoscere una bella ragazza vietnamita, o almeno non una sola. Non ero su una jeep fatta saltare dai Viet Cong e non ho attraversato la giungla per scappare da loro. La semplicità della storia raccontata nel film, in realtà, ha il solo scopo di fotografare un momento preciso della vita reale del Vietnam. Un paese che per una volta non viene raccontato, con inquadrature di giungla in fiamme e corpi straziati, ma con primi piani intensi e poetici. Il tutto condito dalla simpatia di Robin Williams. E questo che cos'è? Caen ca, minestra di palle di pesce. Ah, non sapevo che avessero le palle. Mangia. Dici? Non ci riesco, nuota ancora. No, è tutto ok. Io non dico a te ok, se no. Piace molto. Visto? Tu non fidi me. Mi fido e come, solo che... Come la mangio se sembra un cesso pubblico? Tu mi dici non fido te, ma tu non fidi me. Vuoi essere amico e fidi me? Mangi tutto. Già, e va bene, voglio esserti amico, ecco. Ok, guarda, mi butto. Guarda. Cazzo! Oddio, quanto brucia! Ricordo che la produzione non mi disse quanto fosse veramente piccante quel dannato pesce. La reazione che si vede nel film è reale. Avevo letteralmente la gola in fiamme. Però ricordo anche che quell'occasione, come tante altre, è stato puro divertimento. Robin Williams è entrato perfettamente nella parte e i suoi faccia a faccia con Cronauer continuano per tutta la durata del film. Ogni volta sembra di vedere due vecchi amici che si mettono in un angolo di un bar mentre ricordano i vecchi tempi e si raccontano storielle divertenti sul loro passato. I'll come running, oh yeah, babe, to see you again. Winter, spring, summer or fall. All you got to do is call. And I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. Attenti, riposo. Cronauer, mi dispiace di questa storia. Porco mondo, se sei bravo. Mi piace quello che fai, specialmente per l'effetto che ha avuto sui ragazzi. Grazie. Ma i fatti sono fatti. Sarebbe una macchia per l'esercito. Non posso proteggerti questa volta. Scusi, signore. E il mio programma? Ci arrangeremo. Nel film Good Morning Vietnam, Cronauer viene rispedito in patria a causa delle sue amicizie con un ragazzo accusato di fare la spia per conto del nemico. Anche in questo caso, gli sceneggiatori di Hollywood hanno dovuto creare una storia mai accaduta per il finale del film, come ricorda lo stesso Cronauer. Non credo di aver avuto un amico Viet Cong, ma nella Saigon degli anni 60 non chiedevi ai tuoi conoscenti vietnamiti: «Ehi dai, a me puoi dirlo, tu sei davvero un Viet Cong?» C'è Adrian Cronauer con la sua storia spesso rimaneggiata per esigenze sceniche, ma soprattutto c'è Robin Williams, l'attore e l'uomo fondamentale per realizzare un film di successo come Good Morning Vietnam. Dopo aver girato Good Morning Vietnam, la mia vita è totalmente cambiata. È stato l'inizio di una serie di esperienze cinematografiche strabilianti e diamine, nessuno pretendeva più da me che facessi Nano Nano. Si accorsero tutti che potevo sostenere tranquillamente anche un ruolo drammatico. Non c'erano registi che mi urlavano: «Ehi, c***o, sono le 6, sveglia, si va in scena!» o cose del genere. Il successo di Robin Williams inizia proprio con questo film ed è una carriera sfolgorante che lo porta a interpretare pellicole di grande successo e a vincere anche un Oscar in occasione del film Good Will Hunting, Genio Ribelle. And the Oscar goes to Robin Williams in Good Will Hunting. Robin Williams has previously been nominated 3 times. This is his first Academy Award. Thank you. Oh man, this might be the one time I'm speechless. Per Adrian Cronauer, la carriera di speaker radiofonico è terminata pochi anni dopo il ritorno dal Vietnam e l'incontro con un giovane attore che l'ha saputo far rivivere sul set e farlo conoscere anche fuori dall'ambiente militare è di certo un motivo in più per non lasciare quell'esperienza arginata soltanto a quegli anni. Con una laurea in legge e tanta esperienza nel mondo della comunicazione, è riuscito a ottenere il suo successo professionale come avvocato ed esperto di problemi legali nel mondo dell'informazione. Adesso, da pensionato, si dedica alla sua attività per la difesa dei diritti dei reduci di guerra. Partecipa spesso a conferenze durante le quali ama raccontare, da perfetto uomo di spettacolo, i dettagli e gli aneddoti da cui ha avuto origine il celebre saluto diventato il titolo di un film. Quel saluto divenne celebre, ma scoprii che non a tutti piaceva. In certi casi, durante giornate particolarmente tese, qualche soldato, quando gridavo «Good morning, Vietnam», si girava verso la radio e rispondeva «C'hai rotto, Cronauer!» Mi raccontarono persino che un soldato prese il fucile e distrusse la sua radio. Anche se qualcuno reagisce in questo modo, Cronauer segna comunque una rivoluzione nel mondo della radio militare americana. Le sue scelte musicali non sono esattamente in linea con ciò che l'esercito vuole fare ascoltare ai propri soldati. La radio delle forze armate serviva a risollevare il morale delle truppe. Facemmo un sondaggio e scoprimmo che l'età di questi soldati era compresa tra i 18 e i 20 anni. E quindi decidemmo di mettere la musica che piaceva a loro, non ai loro generali, per non fargli soffrire la nostalgia di casa. Nei 2 anni trascorsi in Vietnam, Adrian Cronauer ha sicuramente combattuto la sua guerra personale a colpi di rock and roll. E a giudicare da quello che gli dicono le persone che con lui hanno vissuto quei momenti, è stato l'unico americano a riuscire a vincerla. Quando lasciai il Vietnam, il DJ che mi sostituì adottò quel saluto e continuò la tradizione durante tutto il periodo alla radio. E divenne una tradizione per tutti i DJ che seguirono. Accade ancora che incontrando i veterani qualcuno mi dica: «Ti ascoltavo ogni mattina». «Davvero? In che anno?» «Tra il 69 e il 70». «Ma io ero lì tra il 65 e il 66». Ma ciò che ricordano è quel grido. Good morning, Vietnam! I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I'm picking up good vibrations. She